ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Olimpia di Dario Ricci. La grande mareggiata da sud, estate 1962. Dei tempi passati ricordo un vento che soffiava attraverso i canyons. Era un vento caldo chiamato Santana, che portava con sé il profumo di terre tropicali. Aumentava di intensità prima del tramonto e sferzava il promontorio. Un film epico, un mercoledì da leoni, in cui le emozioni che si possono vivere tra le onde con una tavola da surf si mescolano a quelle che sa regalare solo l'amicizia più profonda. Emozioni che viviamo oggi qui a Sfogliando Olimpia attraverso un libro che si sviluppa proprio all'incrocio tra il racconto, l'album fotografico e quasi la graphic novel. Onda Maggiore è il suo titolo, il surf secondo Alessandro Marciano, il sottotitolo, libro edito da Gribaudo, e ne parliamo proprio con quello che ne è il protagonista e coautore insieme a Simone Giorgi. Alessandro Marciano, benvenuto a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Grazie, buonasera a tutti. Alessandro Marciano, romano, classe 1971, è tra i surfisti più conosciuti al mondo, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti lungo le coste dei mari e degli oceani planetari. Alessandro, toglici subito una curiosità: come si passa dal placido mare del litorale laziale, dove sei nato, alle onde più grandi del pianeta? È veramente una storia particolare, un'avventura che ancora oggi sto vivendo. Perché in realtà sono quelle classiche situazioni dove uno non penserebbe mai di finirci, e invece incredibilmente mi sono ritrovato su una delle onde più grandi al mondo, lanciato da uno dei miei idoli, e ho affrontato questa montagna d'acqua come un po' fosse poi, diciamo, l'onda perfetta che tutti i surfisti aspettano per una vita, no? E poi mi sono reso conto che in realtà dopo un'impresa di questo tipo si cerca sempre di migliorarsi, quindi un po' una storia senza fine. A ispirarti manco a farlo apposta a tuo papà, vero? Certo, come tanti genitori trasmettono ai figli, no, le loro passioni sportive, devo dire che mio papà fortunatamente non era ad esempio un tifoso di calcio, e invece anzi grande amante del mare, e quindi mi ha, come dire, introdotto un po' a questa passione che poi per lui era il windsurf, che poi per me invece si è tramutata in surf, ma semplicemente per una questione anche di moda. Negli anni 80 il windsurf c'è stato il boom in Italia, e poi invece fine anni 90 è uscito fuori tanto il surf, che era insomma uno sport nuovo e ancora oggi la fa da padrone d'estate. E la prima volta su una tavola da surf, te la ricordi? Sicuramente sono quelle cose che uno non si scorda, perché sono delle sensazioni talmente forti che ti lasciano comunque un segno dentro e anche fuori, perché poi oltretutto mi ero sgrattugiato tutto sugli scogli, piedi soprattutto, però sì, sono quelle cose indelebili che rimangono un po' per sempre. Ecco, di onde ne sono passate da quella prima volta. Va detto che nel volume aiuti il lettore a fare davvero il giro del mondo, tra tutti i luoghi leggendari del surf globale, a partire, sorpresa per noi neofiti, dal Portogallo. Sì, sono nel libro, racconto di tutti gli spot dove ci sono le onde più grandi al mondo, che poi in realtà fino a qualche anno fa si credeva, o perlomeno nell'immaginario collettivo si pensava, che le onde giganti fossero solamente alle Hawaii, California, Australia. In realtà poi appunto Nazaré è stato scoperto relativamente da poco tempo, circa 11 anni, e 10-11 anni fa, e si è capito che quella è l'onda più alta al mondo, e per noi europei è dietro l'angolo. E quindi sicuramente Nazaré per me rappresenta la mecca del big wave riding mondiale, e dove Io ho visto delle vere e proprie montagne d'acqua dove non si vede in nessun'altra parte al mondo e sono riuscito a cavalcare qualcuna di queste onde. Poi ci sono degli altri, che noi li chiamiamo spot, no? Degli altri posti al mondo dove ci sono queste onde fantastiche. Io sono stato a Mavericks in California, che è un posto anche quello incredibile, acqua gelata, ci sono gli squali, onde enormi. E anche quella è una cosa fantastica, come dire, sono quelle emozioni talmente forti che veramente ti segnano. Anche se la mia onda, diciamo la prossima onda che vorrei veramente andare a surfare in Australia è una onda che si chiama The Right, come la destra, perché è un'onda appunto che rompe in quella direzione ed è un'onda mutevole ed è una vera e propria roulette russa, cioè non si sa mai se quest'onda apre o chiude, nel senso non si sa mai com'è l'esito della surfata, quindi veramente 50-50 e o la va o la spacca. È bellissima però come onda e insomma è un po' un mio sogno che forse riuscirò a fare, vediamo, nei prossimi tempi. Ma ti chiedo ancora, il mondo visto dalla cima di un grattacielo d'acqua, che effetto fa? Ma sono, guarda, sono delle sensazioni. Allora, in quel momento chiaramente ogni surfista, ogni big wave rider è molto concentrato, lì prevale la concentrazione, prevale la performance, quindi uno non ha il tempo di, come dire, di godersi lo scenario, ma in realtà è più concentrato sulla propria performance e quindi appunto sulla stabilità, sulla velocità, sul controllo di questa tavola che pesa ben 10-12 kg, ma in realtà è come se fosse un fuscello per la velocità e per la verticalità che si prende su quest'onda. È chiaro che alla fine dell'onda, lì è il momento in cui si sprigiona poi tutta quell'emozione, tutta quell'adrenalina. Lì veramente si sente, come dire, camminare a 3 metri dal suolo dopo aver surfato un'onda del genere, sono quelle cose che ti lasciano veramente una fortissima adrenalina e che sono, ecco, in questo momento sono pochi al mondo che riescano a farlo, però ecco, ti senti fortunato forse ad essere, io mi sento fortunato forse ad essere in quella cerchia che comunque per un modo o per un altro si ritrova a poter usufruire di questa magnificenza del mare. Onda maggiore ha anche una forte valenza motivazionale. Ricetta semplice ma sempre vincente. Persegui la tua passione. Eh sì, beh, queste sono diciamo quelle cose che si dicono solitamente ovvie, no? Che un po' forse alcune volte la gente può pensare siano delle cose banali, il fatto di dire cerca la tua passione, vai, spingi su quello, però è la realtà, nel senso nel mio caso specifico, ma come tanti altri casi, se non avessi avuto questa passione non so che cosa avrei fatto, probabilmente avrei fatto una vita molto più tranquilla, molto meno avventuriere, molto meno divertente, ecco. Invece questa mia passione mi ha, come dire, dato l'opportunità di vivere, comunque di essere libero, di avere una professione appunto che a me piace molto, non essere chiuso ad esempio in un ufficio mi avrebbe comportato insomma seri problemi. Invece così, potendo vivere all'aperto, però appunto è solo perché ho avuto una grossa passione che ho inseguito tra mille difficoltà, perché poi appunto essendo italiano, venendo da Roma, insomma si può capire che non è che sia stato un percorso semplice. Gustoso poi nelle pagine finali, Alessandro, anche il glossario con i termini tecnici in inglese, la lingua ufficiale anche del surf. Così mi fa piacere dici questo, perché in realtà il libro è proprio rivolto a tutte quelle persone che non conoscono bene o che non conoscono affatto questo mondo e questo sport. Quindi cerchiamo di far capire diciamo, tutto quello che gira intorno alla tavola da surf, perché è un mondo veramente sconosciuto. Quindi, come ad esempio in altre situazioni ci sono dei linguaggi particolari, anche nel nostro mondo ci sono tutta una serie di parole che, come dici tu, appunto, vengono elencate nel libro, che sono per noi dei codici, tra virgolette, che ci si riconosce un po' in tutto il mondo. Quindi, facile che un surfista immediatamente feeling con un altro surfista dall'altra parte del mondo solo perché magari si fa il gesto. Si dice hai preso un bel tubo o un barrel o oppure Shaka, insomma, sono tutte quelle parole che ormai sono codificate nel nostro gergo. Tornando all'aspetto motivazionale, invece ci spingi con queste pagine a buttarci, a provarci. A forza di cadere, insomma, ci ricordi che si impara anche a rialzarsi. Esattamente, e, il buttarsi, il lasciarsi andare, il comunque rischiare, serve questo messaggio, serve proprio a tutte quelle persone che magari hanno un freno, no? Che dicono, Dio, posso farlo, non posso farlo. Invece alcune volte veramente bisogna buttarsi nelle cose e provarci. Ti posso dire questo piccolo aneddoto, erano 3 anni, erano circa quasi 3 anni, forse 2 anni e mezzo, che stavo surfando le onde giganti e non ero ancora mai caduto su un'onda veramente grande. E lo stesso Garrett McNamara, un po' il mio maestro che racconto nel libro, mi disse: Alessandro, it's part of the game, è parte del gioco cadere, prima o poi dovrai cadere, perché è come andare in bicicletta, no? Prima o poi si cade tutti dalla bicicletta. E quindi io per circa 2 anni e mezzo non ero ancora mai caduto, ero come un gatto, riuscivo sempre a scappare dalla schiuma delle cose. Invece poi, il 19 febbraio 2018, sono caduto su un'onda di 14-15 metri, proprio nel punto peggiore, come se avessi catalizzato tutto lì. Quando sono caduto, prima di cadere, ho pensato, ok, è finita. Ho detto proprio la famosa frase che c'è anche nel libro, ecco fatto. E invece poi mi sono reso conto che sono sopravvissuto e che tutta quella questione mentale che mi ero creato era solo stato un problema che invece potevo affrontare tranquillamente. Quindi in quel momento ho realizzato che potevo farcela, che sicuramente non era così drammatica tutta quella visione che avevo avuto. E da lì in poi, anzi, da lì in poi, ecco, con le ammaccature, come dici tu, sono chiaramente delle cose che ti rafforzano e che ti spingono ad andare ancora più avanti e a superare i limiti. Alessandro Marcianò, grazie per le tue parole, le tue cadute, il tuo risalire e il tuo splendido libro Onda Maggiore, edito da Gribaudo, e grazie soprattutto per essere stato ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Grazie a te, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Sfogliando Olimpia. Olimpia. Ciao, sono Calacimenti, di ritorno dal mio ultimo allenamento in quota con gli sci, prima della partenza per il Nanga Parbat, dove proverò a scendere dalla cima con gli sci. Quindi ci vediamo sul Nanga Parbat. Ciao a tutti! È stato di parola, Carlo Alberto Calacimenti, scalatore e sciatore estremo. E non solo l'ha salito fino alla cima, il Nanga Parbat, ma è ridisceso da lassù con gli sci ai piedi. E non contento, la scorsa estate, la stessa cosa l'ha fatta con una montagna inviolata, il Gasherbrum 7. Una doppia impresa che, come vedremo, potrebbe portarlo a prestigiosi riconoscimenti internazionali, ma che intanto è diventata un libro, Sdraiato in cima al mondo, edito da Sperling & Kupfer, che sfogliamo oggi proprio insieme a lui. Calacimenti, benvenuto a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport. Ciao, ciao a tutti. Ti prendiamo nel mezzo di un corso di parapendio, cala, tanto per non perdere l'allenamento. E col pensiero, intanto, voliamo alla scorsa estate, a questa splendida doppia impresa. Sì, è stata veramente una bella estate, un progetto che avevo pensato nei mesi precedenti, più o meno ci lavoravo più o meno da 6 mesi, un anno e tutto, ed era molto ambizioso e c'erano molte possibilità che non ci riuscissi ad arrivare in cima al Nanga Parbat e anche in cima a questa montagna sconosciuta e ancora inviolata di cui non avevo neanche una relazione, una fotografia integrale da consultare per poter cercare una via di salita. E quindi le possibilità di riuscita al 100% erano molto poche, anche le mie aspettative, però ci ho messo tanto entusiasmo e tanta motivazione. Alla fine ho ottenuto il massimo risultato pur se poi alla fine anche la bellezza e la soddisfazione e le emozioni di queste 2 montagne sono state macchiate poi da un incidente finale che ha, diciamo, reso un po' meno lieve tutta la vicenda. Beh, ora ci arriviamo, ma appunto, impresa pensata tutta con gli sci ai piedi, non praticissimo, viene da dire portarsi gli sci a 8000 metri. Sì, sì, anche perché appunto lo sci è comunque un attrezzo in più che devi portarti su, che comunque pesa, poi non utilizzo degli sci super leggeri, degli scarponi super leggeri, quelli ad esempio con cui si fanno le gare di sci alpinismo, ma degli sci un pochino più strutturati e anche degli scarponi più spessi, più pesanti, e quindi tutto più pesante per poter essere poi sia più caldi con gli scarponi sia più sicuri con degli sci sul ghiaccio magari, per cui devi anche portarteli su e pesano e sono ingombranti quando sono nello zaino, appesi allo zaino, però poi la soddisfazione in discesa è grandissima e sono anche in molte situazioni molto più sicuri rispetto a scendere una discesa con gli sci, è molto più sicura rispetto a una discesa alpinistica normale a piedi con i ramponi, in quanto sei molto più veloce, riesci a toglierti da situazioni magari di tempo brutto o che va in peggioramento il prima possibile, più velocemente, molto molto più velocemente rispetto a quando sei a piedi. Ecco Cala, invece com'è nato il progetto? Ma diciamo che all'inizio non volevo neanche, il Nanga Parbat non era nei miei programmi, volevo fare delle altre montagne in Karakorum che erano più vicine. La mia idea era quella di provare il Gashenbrun 7 e unirla a un'altra montagna sempre lì di quasi, non di 8000 metri ma di un po' meno, sempre di 7007 mi sembra, che avevo visto e mi sarebbe piaciuto scendere. Poi sono stato contattato da degli amici russi che mi chiedevano informazioni su un'agenzia, a cui ho chiesto: ma scusa, cosa volete fare? Volevamo fare il Nanga Parbat. Vuoi venire? Tutto su Messenger, no? Loro dalla Russia mi chiamavano, mi chiedevano, e io ho detto, ci ho pensato 20 secondi, ho detto va bene, allora quest'altra montagna è diventata il Nanga Parbat prima, quindi questa spedizione più tradizionale, sempre con gli sci ma più tradizionale, su una montagna conosciuta, molto grande, molto impegnativa, e poi una volta finito il Nanga Parbat io da solo mi sarei trasferito e poi mi sarei unito a un amico italiano che è venuto dall'Italia per fare il Gashenbrun 7. Nel libro, Sdraiato in cima al cielo, racconti tanti aspetti anche curiosi di queste due spedizioni. Ad esempio, davvero divertenti le pagine in cui è l'aglio a farla da padrone nella vostra convivenza in tenda al campo base. No, infatti, sì, va bene. Ho cercato di raccontare tanti aneddoti, magari che non vengono raccontati sempre dagli alpinisti che magari si fissano a raccontare l'impresa alpinistica, la salita, le caratteristiche della salita, la discesa, le difficoltà varie, ma non raccontare magari la vita di tutti i giorni, sia al campo base ma anche ai campi alti, no? Quindi appunto questi aneddoti quando mangiavamo l'aglio crudo, quando i russi mi davano l'aglio crudo, che a me faceva piacere, nel senso, a me piace l'aglio crudo, però quando sono a casa con mia moglie devo sempre non litigare, ma devo evitare di mangiare l'aglio, sennò lei poi non mi bacia più. E come l'aglio tanti altri aneddoti, come ad esempio quando mangiavamo questo lardo che hanno loro, molto grasso, congelato, e altre cose divertenti. Stessa cosa col fornelletto per scaldarvi e sciogliere il ghiaccio. Sì, esatto, perché i fornelletti producono tanto monossido di carbonio e per cui è molto pericoloso utilizzare all'interno di una tenda. Questo amico Anton, lui era il delegato, anche colui che usava sempre il fornelletto, il problema è che è una grande comodità far cucinare altre persone, far sciogliere la neve per fare acqua, perché è una rottura di scatole, quindi se lo fa qualcun altro è meglio, solo che lui aveva l'abitudine di farlo sempre all'interno della tenda, in tre in una tenda chiusi, perché magari fuori c'era la bufera e non era tanto piacevole. Io allora mi litigavo con lui, aprivo la porta della tenda, alle volte entrava anche un po' di neve, lui la richiudeva, poi io la riaprivo, lui brontolava in russo, io ribrontolavo in italiano, eccetera. C'era questo giochetto che ho cercato di descrivere anche. C'è anche un piatto che citi a pagina 83, che ti viene mostrato al campo base del Nanga Parbat e che ci ricorda un grande amico di Olimpia, di Radio 24 e devo dire anche di chi vi sta parlando in questo momento, Daniele Nardi. Diciamo che sono questi piatti con cui noi mangiamo di solito quando muoiono degli alpinisti, vengono incisi con la data e il nome degli alpinisti. Ce ne sono tanti sparsi nelle vicinanze di tutti i campi base delle grandi montagne himalayane e in questa particolare casa, alla base, al campo base del Langa Parma, c'è questo piatto insieme ad altri piatti, ma in particolare quello di Daniele, che era fresco di un anno, diciamo, l'anno prima la morte di Daniele, nell'inverno del Langa Parbat, durante l'inverno del Langa Parbat, quindi. E quindi ho voluto un attimo rendergli in qualche modo omaggio descrivendolo, cioè, ricordarlo. Protagonista in diretta e diretta delle tue imprese e anche quindi del libro è tua moglie Erika, una grande donna dietro a un grande alpinista, viene da dire. Sì, sì, infatti più che dietro un grande alpinista mi piace dire a fianco di un grande alpinista, perché lei comunque è sempre al mio fianco, nonostante molte volte non sia proprio al mio fianco fisicamente, ma anche da casa riesce a sostenermi e a fare molto. E anche in questa situazione, ad esempio, dell'incidente è stata un elemento fondamentale per la buona riuscita del salvataggio. E poi anche è un grande sostegno morale anche quando salgo, quando magari le cose si mettono male oppure sei molto stanco e tutto, è un bel conforto. È anche un buon partner di confronto. Libro che si apre subito con la scena più drammatica, l'incidente che quasi costa la vita a Francesco Cassardo nella discesa dal Gascher Brum 7. Mi piaceva appunto portare il lettore subito nell'ambiente, subito nel momento, diciamo, più critico di questi due mesi estivi dello scorso anno. Quindi farlo entrare direttamente, proprio a gamba tesa, nella drammaticità del momento, e poi pian piano sviluppare tutto il racconto delle due montagne, sempre più o meno saltando, sempre mantenendo come, diciamo, tempo principale il soccorso di Francesco, e poi saltando indietro nel tempo, ritornando di nuovo al soccorso, ritornando indietro nel tempo di nuovo prima descrivendo il Langa Parbat, poi descrivendo come è iniziato sul Gascher Brum 7, per tornare poi alla fine al risolvimento del soccorso e le considerazioni finali. Mi piaceva fare questo gioco, diciamo, di salti temporali legati a dei nodi narrativi che ho cercato di trovare per poter far passare il lettore avanti e indietro e mantenere alta quindi la tensione per tutto il libro, cercando di non far perdere la concentrazione al lettore o non annoiarlo, mantenere sempre alto il ritmo. Tra l'altro, la scalata e la discesa proprio dal Gascher Brum 7 ti è valsa la candidatura al Piolet d'Or 2020, che è di fatto l'Oscar dell'alpinismo mondiale. Sì, non ho vinto il Piolet d'Or, e quindi vincerlo sarebbe veramente una grandissima, enorme soddisfazione, ma già essere nominato tra i vari nomi della lista delle ascensioni di particolare che sono valutate per vincere Piolet d'Or è veramente una grande, è veramente bello, è come un po' un riconoscimento del lavoro che e di tutti gli sforzi che hai fatto per realizzare certi progetti. E tanti altri di progetti ne arriveranno. Intanto, Cala Cimenti, complimenti per il tuo Sdraiato in cima al mondo, edito da Sperling & Kupfer, e grazie per essere stato ospite di Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport di Radio 24. Grazie a voi e dita incrociate. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.